That's when to love lost in the third note. Search real love, dancing affinity, dancing affinity with us. Sono delle terze note, nascoste invisibili come dentro l'ombra della gente, dove l'anima risuona, vento indomabile. Quando una strofa risuona con l'archetipo in risonanza di una stessa simile traccia, dona alla tua anima lo spazio invisibile di una nota nuova che sugli spartiti non troverai mai scritta, ma ogni volta che il pezzo suona la ritroverai lì scritta e risuona così come il passo del vento subliminale come eco di due stelle nel centro del mondo, del mondo. Quando una strofa risuona con l'archetipo in risonanza di una stessa simile traccia, dona alla tua anima lo spazio invisibile di una nota nuova che sugli spartiti non troverai mai scritta, ma ogni volta che il pezzo suona la troverai lì scritta e risuona così come il passo del vento subliminale eco di due stelle nel centro, di due stelle nel centro. Danzerai, lo farà tutta la gente con l'eco di una terza nota, variazione di sintassi sullo spartito, lirica dentro meno storica, dove dentro un pezzo vibra l'anima lirica. E tu sarai danza di una storia mai scritta, neanche dal più grande poeta, neanche dal più grande poeta. E tu sarai danza di una storia mai scritta, neanche dal più grande poeta, dal più grande poeta. Sarai lo spazio di una terra di mezzo, risonanza col mondo, eco profondo che danza, dal caos all'ordine di ogni tuo dentro. Danzerai e lo farà tutta la gente, con l'eco di una terza nota, variazione di sintassi sullo spartito, lirica dentro meno storica, dove dentro un pezzo vibra l'anima lirica, dove dentro un pezzo vibra l'anima lirica. E tu sarai danza di una storia mai scritta, neanche dal più grande poeta, neanche dal più grande poeta. Cercherai la tua terza nota, terza parte di una storia mai scritta, favola lirica di una storia mai scritta, amore impossibile alla ricerca della terza nota che nel mondo si nasconde, dentro ogni lirica impossibile del mondo, profondo dentro dove trovare nuovo sogno, anima gemella smarrita per il mondo. Quando il mondo chiederà il conto, tu chiedi indietro la terza nota, l'anima gemella mai scritta, persa dentro ogni lirica, meno storica, meno storica. E tu sarai danza di una storia mai scritta, neanche dal più grande poeta, una storia d'amore mai scritta, neanche dal più grande poeta. Cerca della tua terza nota gemella perfetta, la più grande storia d'amore mai scritta, neanche dal più grande poeta, neanche dal più grande poeta.